compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A vela nel Mediterraneo con Ambra Gaudenzi. Tra 20 anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime, allontanatevi dal porto sicuro, prendete con le vostre vele i venti, esplorate, sognate, scoprite. La frase di Mark Twain sarebbe perfetta per una qualsiasi puntata di Compagni di Viaggio, ma oggi trova la sua collocazione più giusta. Stiamo infatti per imbarcarci su una barca a vela con Ambra Gaudenzi e le sue amiche, per esplorare, sognare e scoprire qualcosa che riguarda sì i luoghi che visiteremo, ma soprattutto l'amicizia che lega questo equipaggio tutto al femminile. Amiche in alto mare, il libro che ho scritto, racconta una vacanza in barca a vela di un gruppo di donne. 8 amiche che ogni anno si ritrovano appunto a fare questa esperienza. Ho scritto questo libro non perché io sia una velista, assolutamente, anzi direi che mi posso annoverare fra le veliste immaginarie, nel senso che come ci definiamo con questo gruppo di amiche con cui andiamo a fare questa vacanza. Appunto ho scritto questo libro proprio perché volevo raccontare la storia di questo nostro gruppo di amiche. E devo dire che appunto io non sono velista, pur vivendo a Genova e avendo il mare e il suo orizzonte come parte della mia vita, in realtà per molti anni le barche a vela sono state per me una semplice appendice di questo paesaggio. Poi ho cominciato a veleggiare prima per amore e poi per amicizia appunto con questo gruppo di amiche. Le premesse sono interessanti. È ormai tempo di lasciare il nostro porto sicuro e prendere con le nostre vele i venti, come ci ha detto Mark Twain all'inizio. Abbiamo cominciato a quel punto dell'esistenza in cui proprio sono più pressanti gli impegni, le responsabilità, figli, famiglia, e probabilmente questa vacanza, che era solo la nostra, rappresentava proprio un allontanamento per qualche giorno da tutte queste responsabilità che la vita comporta. Queste ragazze, come io chiamo le amiche nel libro, appunto partono per questo fatidico viaggio in barca a vela. Dopo anni di queste vacanze, appunto, io ho provato il desiderio, perché la mia voglia di scrittura forse è più forte sicuramente della mia voglia di veleggiare, ho provato appunto il desiderio di raccontare questa storia di questa vacanza in barca e soprattutto dell'amicizia di queste donne. La storia è raccontata in forma di diario di bordo ed è una vacanza di una quindicina di giorni dall'isola di Ponza alla Corsica, passando per l'isola d'Elba, e appunto si ispira a questa storia vera, questa storia mia, di queste ragazze, alle loro avventure tra nodi sbagliati, ormeggi per noi vittoriosi e traversate calme, tempeste assolutamente mai vissute, ma sicuramente per come affrontano queste donne la vela, sono tempeste anche dei mari poco mossi, e tante chiacchiere, tante risate, riflessioni sull'età, sugli uomini, sul sesso, insomma è una vacanza molto molto poco, diciamo, poco sportiva e molto invece di amicizia e di chiacchiere. Stiamo per entrare nel vivo della barca a vela, non semplice mezzo di trasporto geografico, ma anche mezzo di trasporto emotivo. Sarà il poco spazio, sarà che siamo tutte donne. Fatto sta che siamo felici di avere lasciato gli ormeggi. Diciamo che il viaggio in barca a vela è un viaggio molto diverso, diciamo, dai viaggi di visita o di turismo, anche se si vedono molti, molti luoghi, molti paesi, isole, però devo dire che alla fine il centro del viaggio è indubbiamente il mare. Le località sono solo i corollari di questo luogo. Ed è un viaggio che vive più attraverso, secondo me, la mancanza, che non la reale, come dire, conoscenza dei posti. Cosa voglio dire con questo? Che in realtà è un viaggio attraverso la mancanza della terra. Chi si trova in barca, circondato dal mare, desidera poi, sì, il mare, un'esperienza bellissima perché essere in mezzo al mare di giorno, di notte, le albe che si vedono, i tramonti, sono qualcosa di molto emozionante e meraviglioso, ma c'è sempre poi questo desiderio della terra, di arrivare in un porto. E nel libro descrivo in maniera molto accennata, devo dire, a questi luoghi che vengono attraversati. E questi luoghi comprendono, tanto per cominciare, una città molto affascinante, ma di cui si parla decisamente poco. La partenza di questo viaggio che viene descritto nel libro è da Gaeta. Gaeta era una città che assolutamente non conoscevo, una cittadina che non conoscevo, e devo dire che è stata una bella scoperta. Poi forse appunto proprio perché in realtà è sempre vissuto, tutti i posti, tutti i luoghi sono vissuti attraverso il fatto che comunque si parte o si arriva in questi posti e in mezzo c'è il mare, si vivono in un modo più legato, forse appunto, come dicevo prima, alla mancanza della terra, agli odori, e per cui non so, Gaeta nella mia descrizione è una descrizione più che sì, c'è il castello Angioino, è una posizione bella, però è vissuta attraverso, non so, i panifici col profumo di pane o i fruttivendoli col profumo di frutta di pomodori, il profumo di olive e acciughe sottosale. Dunque, vissuto in una maniera più così legata all'atmosfera che non proprio alla visita canonica di un posto. E dopo la piacevole scoperta di Gaeta attraverso i suoi profumi, ci dirigiamo all'isola di Ponza. In questo viaggio, appunto, da Gaeta poi si passa all'isola di Ponza. E anche qui è un po' la stessa atmosfera, cioè l'isola quando ti appare verso sera che diventa quasi blu col sole ormai tramontato, una rada in un posto molto bello a Cala Inferno sotto queste rocce diruppate con una navetta attraccata a un vecchio pontile, o l'isola di Palmarola che è un'isola vicino a Ponza, con delle coste frastagliate, gli scogli che emergono dal mare, col colore dell'ossidiana, cioè sono tutti luoghi vissuti attraverso più i colori, gli odori, che non appunto magari quello che poi si può trovare a terra, perché è sempre una visione, è sempre un viaggio un po' visto sempre dal mare. La cosa bellissima ovviamente è entrare poi nei porti, perché questo ritorno un po' sempre a casa, no? Ogni porto, anche se è sconosciuto, è comunque un posto accogliente, dove sostare. Nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, la foca barbuta sempre piaciuta che è solitaria le piace cantar. Una sirena si sente coi baffi, una sirena del fondo del mar, i pesci uccelli le battono le ali e scrosciano applausi di pinne e di bolle nel fondale spettacolare. compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A vela nel Mediterraneo con Ambra Gaudenz. Siamo partite da Gaeta con Ambra Gaudenzi e le sue amiche a bordo di una barca a vela. Un viaggio fatto di mancanza, come l'ha definito la mia accompagnatrice, poiché i posti che si visitano sono solo un corollario, mentre al centro c'è sempre il mare. La barca, inoltre, è il pretesto per rinsaldare l'amicizia tra queste donne e io mi sento lusingata di essere stata accolta in coperta ad ascoltare le loro chiacchiere. Ora siamo dirette all'isola di Ponza. Ponza, provincia di Latina, è la più grande delle isole pontine. L'arcipelago comprende anche Gavi, Zannone, Palmarola, Ventotene e Santo Stefano. La superficie di 7,5 km quadrati arriva a un'altitudine massima di 280 metri col Monte Guardia a sud. Il comune ha poco più di 3.000 abitanti, che si moltiplicano durante la stagione estiva. Il turismo, infatti, insieme alla pesca, è alla base dell'economia dell'isola. Via Ponza, cioè, è bellissima l'entrata proprio nella cittadina, in questa baia semicerchio con le case tutte colorate, una scenografia proprio di case colorate, oppure di nuovo una baia splendida, Chiaia di Luna, che è una baia a semicerchio con delle pareti di tufo bianche alte 100 metri, con un mare a seconda della giornata blu o azzurrissimo. E di nuovo questo è un luogo indimenticabile. Quello che contraddistingue anche il viaggio in barca, ripeto, è un viaggio in barca a vela che non è vissuto certo come una competizione o in maniera sportiva, è un tranquillo bordeggiare, è anche questo senso della lentezza, cioè il viaggio fatto lentamente, viaggiare con lentezza ti porta a vedere le cose in maniera diversa. Facendo una divagazione non su quello che è il libro, però ripensando a dei viaggi fatti sia in barca ma anche non in barca, ma ad esempio in barca per un anno che sono partita da Genova per andare semplicemente verso il ponente, verso Finale, che è nel ponente della Liguria, ricordo che una cosa che avevamo notato era quanto sembrasse diversa e più antica la terra che vedevamo rispetto al viaggio in macchina della stessa costa, proprio sicuramente questo dato da questo senso di lentezza, come se la lentezza portasse anche indietro nel tempo, o perché attraverso la lentezza vedi le cose in un modo diverso, forse più interiorizzato. Questo appunto direi che è un po' il modo di viaggiare in barca, o questo è il modo di viaggiare di queste donne, ecco, non dico che sia sempre così. Bella l'immagine di un viaggio indietro nel tempo dovuto alla lentezza. Del resto, in un presente dove tutto è accelerazione, è strano e piacevole ritrovare un ritmo che sembra d'altri tempi e che invece, mi verrebbe da dire, è solo più umano. Lasciata Ponza, i luoghi appunto visitati dopo l'isola di Ponza sono state l'Elba, raccontate in questo libro, sono l'Elba e dell'Elba appunto diciamo ci sono tutte da Porto Azzurro a Rio Marina, Marciana Marina, è sempre un modo di vedere dei luoghi in maniera appunto da marinai, insomma, con questo desiderio sempre di approdare. E non so, Rio Marina che compare nei colori caldi e dorati del pomeriggio, chiusa in questa piccola insenatura col mare calmo, è apparsa come un'aria, una tranquilla aria da anni 50. Non sembrava neanche un porto turistico, le barche poche. Ed è appunto singolare il fatto che poi in realtà se fosse stata visitata in altro modo, forse sarebbe apparsa completamente diversa. L'Elba è l'isola più grande dell'arcipelago toscano e la terza d'Italia. Situata tra il Mar Ligure e il Mar Tirreno, dista 10 km dalla costa e conta 8 comuni, tutti nella provincia di Livorno. I 30.000 abitanti lievitano durante la florida stagione turistica, anche grazie al suo clima mite che favorisce una diffusa macchia mediterranea. Sempre all'Elba, andando lungo la costa, e sempre con questa atmosfera, non so, c'è la costa, c'è Cavo, che ad esempio mostra ancora i segni delle vecchie miniere, e in un ancoraggio fatto, appunto, che descrivo nel libro, in una baia, si avvicina a un arrugginito pontile per il carico del ferro, ormai neanche più utilizzato, però proprio con questa atmosfera un po' antica, ecco, è forse dato proprio da questo La viaggiare barca poi in lento. realtà È proprio una sorta di micromondo. Vivere un'esperienza di vacanze, di viaggio in barca è quasi più un viaggio appunto interiore che non un viaggio legato ai luoghi fisici, perché ti permette in questo piccolo spazio circondato dall'acqua di poter chiacchierare, parlare, riflettere, e questo è quello che poi in realtà è il senso più del libro, un viaggio più interiore. Cioè queste donne in realtà che ogni anno si ritrovano in barca in questo viaggio crescono insieme, per cui anche un viaggio proiettato all'interno, sempre che ci sia la voglia, e tra queste donne c'è di autoanalisi e di riflessione su di sé e sul mondo. Il viaggio interiore probabilmente è possibile anche grazie alla mancanza della terra, alla mancanza dell'ancoraggio alla realtà e alla concretezza che spesso zavorra. Questa mancanza della terra che si sente quando si è in navigazione e che Ambra ha descritto nel libro. Il Giglio l'hanno salutato con la mano, giusto il tempo di pensare: oh, che bello sarebbe fermarsi al Giglio, ed erano già oltre. Camilla ha detto che, visto che il vento con l'aiuto di qualche bordo portava, tanto valeva approfittarne e raggiungere direttamente l'Elba. Un cenno di assenso partecipe da parte di Marta, silenzio da parte delle altre sei. Svaniti in tante bolle i sogni di ognuna: una bella doccia in porto, un caffè al bar, una passeggiata sulla terraferma. È strano come in barca si acquiscano i sensi, l'odore di terra, per esempio. Non c'è niente come l'odore di terra che ti entra dentro. A volte lo senti mentre sei in navigazione, portato dal vento, odore di mirto, di timo, di erbe calde, di sole, e quando scendi a terra è un profumo che riconosci, che ti fa sentire a casa. Ma niente da fare, l'odore di terra del Giglio l'hanno nasato per poco, per poi scordarselo e proseguire. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A vela nel Mediterraneo con Ambra Gaudenzi. Un gruppo di amiche e una barca a vela. Il viaggio di oggi è fatto di vento in poppa e tante chiacchiere, di isole, di mare, di mancanza e di lentezza. Tra le varie sensazioni che ci siamo portate, vogliamo forse dimenticare il mal di mare? Diciamo, appunto, questo può essere la parte di sensazioni, di piccole emozioni che si provano, mentre ci sono proprio aspetti durante il viaggio che possono essere decisamente negativi, come il mal di mare che può rovinare una parte del viaggio. Il moto ondoso in una barca a vela si sente, e più la barca è piccola più si sente, e si può tranquillamente affermare che se Elisa è sufficientemente grande per far stare abbastanza comode 8 persone, non lo è tanto da evitare in certi frangenti la sensazione di sentirsi come un tappo di sughero in balia delle onde. La naturale conseguenza del moto ondoso è il mal di mare. Il mal di mare è democratico e imparziale, non distingue né classi sociali né razze né tantomeno sesso, e uomini e donne lo subiscono allo stesso modo. C'è però chi non ne soffre affatto, mentre fra quelli che lo patiscono chi soffre di meno e chi soffre di più. Anche il velista più appassionato può soffrire di mal di mare. L'equipaggio di Elisa non fa eccezione. Quello che succede è che di solito tutti, dopo 1 o 2 giorni in barca, prendono il piede marino e si abituano a camminare a gambe divaricate, saltellando come dei pugili per non perdere l'equilibrio, e a pensare che l'unico mondo possibile sia perennemente in movimento. Ma è altrettanto vero che andare su e giù per ore con un mare decisamente mosso può sfiancare anche l'equipaggio più assoluto. Ed è questo che succede all'equipaggio delle ragazze. E avere il piede marino non è da tutte. Questa è una delle, appunto, delle parti meno piacevoli di quello che può essere un viaggio in barca a vela, perché uno continua nonostante la sofferenza di questi momenti, è semplicemente perché poi ci sono dei momenti meravigliosi che sono appunto dati dalle famose albe, dai famosi tramonti in mare, piuttosto che ritrovarsi circondati dai delfini e riuscire addirittura a toccarli, piuttosto che dormire in rada. Dormire in rada, prosegue Ambra, è una delle esperienze più belle della barca, perché mentre in porto c'è la comodità, solo in rada si vivono momenti veramente magici, come quando non vedi più la differenza tra mare e cielo, o quando ti svegli al mattino e ti tuffi prima ancora di avere fatto colazione per fare un bagno, e la giornata prende tutta un'altra piega. Ed ecco che la mia compagna di viaggio vuole leggermi un passo del libro dove si parla proprio dell'esperienza della rada. Nello specifico di una rada dopo Portoferraio, all'isola d'Elba. C'è sempre in queste situazioni un leggero senso di euforia che pervade gli animi. È la consapevolezza di vivere un tempo sospeso, quasi perfetto, di assoluta libertà, in cui non esiste altro se non la percezione di quel preciso momento. Il cielo che si sta scolorando e si confonde con il mare, e il contorno della luna ancora quasi impercettibile. Il rumore lontano e leggero della risacca, lo sciabordio lieve attorno alla barca, il profumo di erbe e di alberi. 8 donne insieme dentro un guscio di noce, sole in mezzo a un golfo, sole in mezzo al mondo, che chiacchierano. La sera ha lasciato il posto a una notte orientale, le stelle al loro posto. Il viaggio che la Gaudenzi racconta nel libro è solo una parte delle esperienze che queste donne hanno fatto nella realtà. Tanti anni di vacanze in barca non si potevano concentrare in poche centinaia di pagine, anche se l'assaggio che si ha leggendolo è decisamente affascinante. I luoghi visitati sono solo un corollario, come già ci ha detto lei. Al centro c'è sempre il mare, quello calmo che le fa veleggiare ogni anno e quello che si agita dentro ognuna di loro. E questo appunto può dare il senso reale di cosa vuol dire un viaggio in barca e una vacanza di questo tipo. Un'altra meraviglia appunto che contrasta e fa dire sì ogni anno questo viaggio è da ripetere, può essere un'esperienza quasi unica, almeno a me è successa, l'ho descritta perché appunto sempre è reale, dopo una leggera pioggia ritrovarsi giusto in una baia con una pioggerellina ancora lieve e di colpo appare un arcobaleno che circonda con il suo arco la baia e la barca. E devo dire che questa appunto è di nuovo un'esperienza di viaggio che è paragonabile sicuramente alla visita di qualche straordinario monumento, insomma, un arcobaleno che ti appare e ti circonda e cacciarsi in acqua e cercare di nuotare verso l'origine di questo arcobaleno, penso che sia una cosa che può succedere solo veramente in casi rari e comunque in situazioni di questo tipo. Dunque, proprio momenti di gioia intensa. E se per Dorothy del Mago di Oz, lassù da qualche parte sopra l'arcobaleno ci sono i sogni che hai fatto che diventano realtà, per queste donne in barca, quaggiù, sotto l'arcobaleno, c'è la realtà che diventa improvvisamente un sogno. That I heard of once in a lullaby. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A vela nel Mediterraneo con Ambra Gaudenzi. Il mare è la nostra strada. Sono in barca con Ambra Gaudenzi e le sue amiche che ogni anno fanno questo viaggio. È un viaggio dentro all'amicizia, fatto di chiacchiere e panorami stupendi, di risate e odore di terra. Abbiamo visto Ponza, poi l'isola d'Elba. Abbiamo avuto il mal di mare nel pacchetto di emozioni e abbiamo anche dormito in rada. Essere solo donne ha reso tutto più emozionante. Quello che appunto è però appunto la vera motivazione di questo libro è appunto il fatto di andare in barca tra donne, tra amiche, quasi una forma di sfida. Oggi ci sono tante donne veliste, bravissime, però un gruppo di amiche così che si ritrovano non per sport ma per piacere di stare insieme, comunque di affrontare una barca a vela che oggi, nonostante comunque tutto, ogni volta che queste donne partono diretta, cioè tutti sono stupitissimi del fatto che non ci sia un uomo a bordo, per cui è un po' una sfida anche questo viaggio, nonostante appunto che non siano veliste vere, a parte una che ovviamente lo è ed è brava, se no la barca probabilmente non sarei qui a parlare, sarei già affondata da qualche parte, però una brava c'è, le altre tutte appunto veliste. Immaginarie, credo che però appunto ci sia questa parte anche di sfida e di sfida di riuscire a fare una cosa senza uomini, che di solito sono appunto deputati invece alla barca a vela, e poi comunque il rendersi conto che questo modo di viaggiare insieme in barca è così diverso da altri modi da rappresentare veramente forse l'unico modo per poter stare insieme e poter riflettere e parlare di noi. Chiedo ad Ambra come sarebbe per lei e le ragazze, come le chiama nel libro, fare lo stesso viaggio scegliendo un altro mezzo di trasporto. Abbiamo anche pensato, appunto nella realtà, al di là del libro, di, non so, fare un viaggio insieme in macchina, affittando il classico pulmino. Ci vedevamo quei pulmini Volkswagen anni 70, però credo veramente che comunque un viaggio così, pure in uno stesso appunto pulmino, per cui tutte insieme chiuse dentro, però sei sempre con un contatto con l'esterno molto più forte, mentre appunto il viaggio in barca, con i lunghi spostamenti, perché gli spostamenti dei viaggi in barca, se ci sono delle traversate, possono durare, nel nostro caso sono sempre viaggi piuttosto limitati, però comunque da Genova alla Corsica ci impieghi una notte, una mattina, insomma ci sono sempre dei tempi lunghi per qualsiasi cosa, per cui è un modo per poter stare e poter parlare di noi. E i tempi lunghi non fanno che ridare al tutto un ritmo più umano, risincronizzano il cuore al cervello. Ogni nome è un uomo e ogni uomo è solo quello che scoprirà inseguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po'. Sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito e vado via, mi vida così sia. E io poi alla fine appunto spiego un po' anche del perché queste donne continuino andare in barca. E alla fine dico questo: le foto delle vacanze in barca delle ragazze campeggiano incorniciate nelle case delle 8 donne, vengono sempre mostrate con soddisfazione e orgoglio. Ritraggono le amiche ammassate a prua o ammassate a poppa o ammassate sul pontile, con gli occhiali da sole, senza occhiali da sole, con il cappello di paglia, con il berretto con la visiera, senza cappello, col pareo, vestite sportive, con il vestitino della festa, ma sempre che ridono apertamente verso l'obiettivo. E mentre Ambra continua a leggermi i passi del suo libro, penso a una frase di Simone de Beauvoir: non si nasce donne, si diventa. Non che ci siano solo le risate a tenere insieme questo gruppo di donne, e se non ricordano cosa le ha spinte a fare il primo viaggio, sanno bene perché continuano a farlo anno dopo anno. Le veliste immaginarie sanno portare in giro i loro affanni, le loro contentezze, le cose futili e quelle più grandi, tra nodi sbagliati e ormeggi vittoriosi. In mezzo ci sono gli eventi della vita, e talvolta il distacco dalla banchina è stato anche il distacco da un'esistenza che non sarebbe più proseguita come prima, mentre non c'era stato distacco dal dolore, che quello non è mai rimasto a terra, e se lo sono portate dietro in barca, insieme all'amica che aveva perso se stessa nella sua metà, insieme a un figlio mai nato, insieme alla consapevolezza che una di loro non poteva più condividere pensieri di tutte le altre. Ma riescono a ridere anche in alcuni di quei momenti, perché sono risate che comprendono la tenerezza. E se davvero non si sa perché queste eterne veliste immaginarie non abbiano mai imparato completamente le tecniche della mera vela, si sa perché continuano ad andarci. L'ultimo aneddoto col quale mi vuole salutare, sempre preso dal libro, è la conferma che un viaggio di questo genere, una volta all'anno, dovrebbero poterselo permettere tutte le amiche. Uno dei momenti che le ragazze ricordano con più piacere è quanto era stato bello entrare a Porto Maurizio, mentre da una barchetta che ne stava uscendo un gentile signore anziano gli aveva fatto cenni di saluto, e ancora più bello era stato sentire la signora coi capelli grigi che stava con lui gridare da lontano: «Siete tutte donne?» E alla loro risposta affermativa aveva alzato con contentezza i pugni in segno di forza e di condivisione. Era come se in un attimo avesse capito quelli che erano i loro pensieri, o ancora di più, che i loro pensieri fossero i suoi. Le amiche ora sono chine lungo la spiaggia a raccogliere sassolini colorati, il cielo si è caricato di ferrosa elettricità, il traghetto le aspetta. Tempo di rientrare, ragazze! Ora Ambra Gaudenzi è in libreria con Amiche in alto mare, edito da Sperling & Kupfer. I can hardly express my mix. fast emotions.